tra la pace e l'amore, buoni propositi e la discussione, viva la comprensione, evviva il sole e la bella stagione, evviva quello che provo per te, viva i rapporti veri, l'intelligenza e i pomeriggi bui, evviva la realtà, la tolleranza, l'onestà, la pazienza. Sorriso di circostanza, doppie facce e falsità a priori, la voce di chi ha avuto già abbastanza, la gente fashion e le trasgressioni, il buono a niente la fa da padrone, al comando le stesse poltrone, tutti davanti la scatola bianca, con dentro un pacco pieno di milioni. Apro gli occhi e non c'è più nessuna distinzione, vedo solo falsi dei. E non esiste più nessuna distinzione, siete tutti grandi eroi. Sa parlare, viva la comprensione, al comando le stesse poltrone, e viva quello che provo per te, e viva il sole e la bella stagione, e viva il cielo e viva Gesù Cristo, sacrificato per quattro coglioni. Apro gli occhi e non c'è più nessuna distinzione, vedo solo falsi dei. E non esiste più nessuna distinzione, siete tutti.